cosa serve possedere il mondo se ciò che amo non c'è più? A cosa serve questo maledetto giorno se la mia alba è solo un tramonto? Non ho bevanda che disarmi la mia sete, non ho pazienza, io non ho più pace. Tutto si oscura e anche l'aurora mi sembra una macabra sera. A cosa serve restare su questa terra ora che anche l'aria mi fa la guerra? A cosa serve accumulare ricchezze per chi per cosa almeno prima avevo una scusa? E non venirmi a raccontare che poi ti passa, che è solo amore. Tu non sai quanto il cielo è scuro, tu non sai quanto mi manchi il suo fiato. Non mi guardate, non mi parlate, sono infuriato, non sono felice. Non mi pensate, non mi cercate, sono perduto, non ho più voce. A cosa serve avere un cellulare se non puoi mai chiamare? A cosa serve avere una villa al mare se non la puoi mai aprire? Ho il cuore in frantumi, a pezzi, le mie mani sono stracci, quel poco di forza che mi resta mi serve solo a ricordarmi la sua faccia. A cosa serve aver passato 20 anni, avuto tempo, avuto figli? A cosa serve? E non voglio vivere di ricordi, e tutto mi fa credere che questo tempo è solo cenere. Quando la vita ti strappa la luce, si perde sempre e tutto tace. Quando un amore diventa muto, il giorno muore e con lui ogni pathos. Io non ho più vita, io non ho più casa, io non ho più alcuna ragione né difesa. Sono allo sbando in questo mondo, sono distrutto, moribondo. Io non ho più sete, io non ho più fame, io non ho più alcuna ragione per sperare. Sono allo sbando in questo mondo, sono distrutto, moribondo. A cosa serve possedere il mondo se ciò che amo non c'è più? A cosa serve questo maledetto giorno se la mia alba è solo un tramonto? Non ho bevanda che disarmi la mia sete, non ho pazienza, io non ho più pace. Tutto si oscura e anche l'aurora mi sembra una macabra sera. A cosa serve restare su questa terra ora che anche l'aria mi fa la guerra? A cosa serve accumulare ricchezze per chi per cosa almeno prima avevo una scusa? E non venirmi a raccontare che poi ti passa, che è solo amore. Tu non sai quanto il cielo è scuro, tu non sai quanto mi manchi il suo fiato.